Componimento 112° del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Sennuccio, i vo che sapi in qual maniera trattato sono e qual vita è la mia. Ardomi e struggo ancor com'io solia, l'aura mi volve e son pur quel chimera. Qui tutta umile e qui la vidi altera, or aspra, or piana, or dispietata, or pia. Or vestirsi onestate, or leggiadria, or mansueta, or disdegnosa e fera. Qui cantò dolcemente e qui s'assise, qui si rivolse e qui rattenne il passo, qui co begli occhi mi trafisse il core, qui disse una parola e qui sorrise, qui cangiò il viso. In questi pensier lasso, notte e dì, tiemmi il Signor nostro amore. Fine del componimento.